pensiero e pensieri, apriamo la nostra mente per vedere nel futuro, per vedere nel passato, ma soprattutto vedere nel presente. Apriamo la nostra mente per vedere lo possibile, per vedere l'invisibile, per vedere ciò che vogliamo vedere, di pensiero e pensiere, di pensare in parti, di pensare ogni giorno e riposare. Apriamo la nostra mente per vedere lo possibile, per vedere lo impossibile. Apriamo la nostra mente ogni giorno, ogni sogno, ogni alba. Apriamo la nostra mente sulla strada, inclinate o piatte, con croce o senza di esse, infinite o concise. Di pensiero e pensieri, di pensare la nostra mente si nutre, di pensare chiunque prende l'affitto e sta esercitando. Apriamo la nostra mente per vedere nel futuro, per vedere nel passato, ma soprattutto vedere nel presente. Apriamo la nostra mente per vedere lo possibile, per vedere l'invisibile, per vedere ciò che vogliamo vedere. Di pensiero e pensieri, di pensare in parti, di pensare ogni giorno e riposare. Di pensare ogni giorno e riposare. Lulu Cesare, il Cavaliere.